affrontiamo uno dei soggetti che è alla base della dottrina cristiana e della salvezza dell'uomo, la resurrezione di Cristo. Divideremo lo studio in tre parti. Nella prima faremo un discorso apologetico, cioè spiegheremo a coloro che negano la resurrezione di Cristo perché crediamo a questo miracolo. Poi vedremo le ragioni della resurrezione di Cristo. Infine esamineremo cosa avrebbe significato per l'umanità la mancata resurrezione di Cristo. La prima domanda che sorge spontanea è: Gesù è veramente risorto? Non è un interrogativo formale o irrilevante. Dalla risposta che daremo si potrà giudicare se il cristianesimo sia veritiero. Oppure no, qualcuno ha detto, noi crediamo che l'adempimento delle profezie e la resurrezione di Gesù Cristo rappresentino una prova della veridicità delle nostre affermazioni. Crediamo di poter convincere chiunque abbia una mente aperta alle prove che le presentiamo, di possedere sufficienti prove da far concludere che la Bibbia e il suo contenuto sono veritieri. Una affermazione del genere è ardita, ma io la condivido. Ora, giudicate voi se quello che esporrò sia vero oppure no. È molto significativo che la resurrezione di Gesù sia il miracolo che si può provare con maggiore facilità. Non può infatti essere presentata nessuna controprova risalente a quel periodo. L'unica obiezione che può essere avanzata è degli scettici, i quali affermano che un tale fatto non sia possibile. Essi tentano di screditare il miracolo della resurrezione sulla base della sua presunta impossibilità, ma non forniscono obiezioni documentate sui fatti storici accertati. Da un attento esame dei Vangeli, che costituiscono la fonte storica dei fatti, rileviamo che la resurrezione di Cristo sia diversa da tutti gli altri miracoli, in quanto costituisce l'avvenimento fondamentale sul quale è fondata la Chiesa cristiana. Per la Chiesa cristiana non vi sarebbe stata grande differenza se Cristo avesse compiuto altri miracoli o no. E certo che gli altri miracoli aiutarono i discepoli a credere in Gesù e probabilmente in una certa misura prepararono la loro mente ad accettare il più grande di tutti i miracoli. Ma per quello che riguarda la resurrezione, il caso è completamente diverso. Senza la resurrezione non vi sarebbe stata la Chiesa cristiana. Perché facciamo questa affermazione? Per almeno tre motivi. 1. La resurrezione di Cristo diede ai discepoli la prova convincente di cui avevano bisogno. Gesù era, veramente, il Figlio di Dio e, quindi, tutte le sue affermazioni erano vere. 2. La resurrezione di Cristo costituiva il suggello imperiale del Dio Onnipotente sulla vita, sull'opera e sull'insegnamento di Gesù. Dio, facendo risorgere Gesù, ha avallato tutto quello che egli ha fatto e detto. 3. Ma, e soprattutto, la resurrezione di Cristo provava che la redenzione che egli aveva acquistato al Calvario fosse valida ed efficace per tutti quelli che avrebbero confidato in lui come Salvatore. E venne ricordare che, per quanto i discepoli potessero avere fiducia in Cristo mentre era vivo, e per quanto avessero potuto rispettarne la memoria dopo morto, essi non avrebbero potuto che essere alla fine dei delusi, come furono i discepoli sulla via di Emmaus, i quali dissero. A mutare completamente l'atteggiamento dei discepoli era stata invece la convinzione che Cristo fosse realmente risuscitato dai morti. La resurrezione aveva dato vita alla loro volontà, spingendoli in avanti come audaci e fiduciosi testimoni in tutto il mondo allora conosciuto. È chiaro, perciò, che occupandoci della resurrezione di Cristo ci interessiamo ad un miracolo che differisce da tutti gli altri, in quanto essa è il fondamento di una istituzione oggi esistente, la Chiesa. Abbiamo detto che coloro che negano la resurrezione di Cristo, gli scettici quindi, non hanno nessuna prova storica a loro favore. Ma essi hanno avanzato ipotesi o teorie che, se non hanno valore per negarla, almeno hanno lo scopo di tentare di falsificare il miracolo della resurrezione. Cercheremo ora di esaminare queste teorie o ipotesi, valutandole alla luce dei fatti storici così come riportati nella Bibbia. Forse qualcuno rimarrà stupito che si usi proprio la Bibbia per rispondere a chi non crede in essa. Bisogna però ammettere che l'unica fonte per credere o negare la resurrezione di Cristo sia la Bibbia stessa. la quale viene usata anche dagli stessi increduli. A. La teoria dello svenimento. Secondo questa teoria Gesù non morì in croce, ma svenne in conseguenza del dolore e delle torture. Tutti lo ritennero morto. E, allora, venne sepolto nella tomba. Il terzo giorno rimosse la pietra che sigillava il sepolcro. Apparve ai suoi discepoli, i quali diffusero la notizia che egli era risorto. Per sostenere questa teoria vengono citati casi di persone credute morte quando invece erano solo in stato di coma. Questa teoria trascura i fatti narrati e gli usi dell'epoca, tramandatici dalla storia. I romani erano esperti in crocifissioni. Il corpo dei giustiziati era sottoposto a continua sorveglianza. Nessuno veniva deposto dalla croce se non si era certi della morte. Nel caso di Gesù, gli evangelici ricordano che gli fu forato il fianco, provocando un foro tanto largo da permettere che vi si introducesse una mano. Infatti Gesù disse in seguito a Tommaso: «Metti la tua mano nel costato». Lo scopo di quella ferita era squarciargli il cuore per provocare la morte, nel caso che questa non fosse ancora avvenuta. Ma nel caso di Gesù la morte era già avvenuta. Gli studiosi affermano che, quando un uomo muore per la lacerazione del cuore, i globuli rossi del sangue si coagulano e i globuli bianchi si separano dai rossi formando un siero. Ciò che vide il discepolo che Gesù amava fu la prova che Gesù era morto per la lacerazione del cuore. I ventricoli si erano rotti, il sangue era fluito nel pericarpo ed aveva formato un grumo e del siero. Quando la lancia perforò il pericarpo uscirono sangue e acqua, Giovanni 19,34. Questa è la prova che Gesù era morto. Sì, Gesù morì dal dolore, di crepacuore, per l'abbandono da parte di Dio, perché egli si era caricato di tutti i peccati degli uomini, perché egli stesso è stato fatto peccato al posto di questi ultimi. Non fu quindi l'uomo ad uccidere Gesù, il Figlio di Dio. Il principe della vita, dal dolore, donò la vita. Ma ammettiamo per amore di discussione che Gesù fosse caduto in stato di coma. Com'era possibile che un uomo dopo 3 giorni, senza mangiare e bere acqua e al quale erano stati forati le mani e i piedi, la cui testa era una massa di ferite provocate dalla corona di spine e che aveva nel fianco una profonda ferita dalla quale era uscito del sangue, potesse rotolare una pietra tanto grande da richiedere l'intervento di parecchi uomini? E se anche vi fosse riuscito, cosa dire delle guardie poste dai sacerdoti per proteggere il sepolcro da eventuali ladri? Come spiegare, inoltre, che egli sia andato a piedi fino ad Emmaus con 2 discepoli il giorno stesso e che la sera, poi, egli sarebbe tornato a Gerusalemme per apparire agli apostoli? La teoria dello svenimento, quindi, non regge. B. La teoria del corpo sottratto da amici di Gesù. Questa teoria venne suggerita dagli stessi ebrei, nemici della nascente Chiesa. Leggiamo nell'Evangelo di Matteo. E il giorno seguente, che era quello successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora in vita, disse: "Dopo 3 giorni io risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno, che talora non vengano i suoi discepoli di notte a rubare il corpo, e poi dicano al popolo: "Egli è risuscitato dai morti", così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Ma Pilato disse loro: "Voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro come vi sembra meglio". Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro e, oltre a mettere la guardia, sigillarono la pietra. Matteo 27:62-66. La teoria del corpo sottratto da amici comporta 2 impossibilità. La prima è che le guardie del Tempio, in gruppo, non avrebbero mai potuto dormire durante un servizio loro affidato, soprattutto perché questo significava per loro la morte. La seconda impossibilità che questa teoria sia valida è data dal fatto che, per avallarla, dovremmo credere che tutto il gruppo dei discepoli, i quali in seguito trascorsero la propria vita proclamando un evangelo, che esige il più elevato carattere morale e le cui vite confermarono la loro fede, testimoniata anche dai loro nemici, fondasse il proprio messaggio su qualche cosa che essi sapevano essere falso. Questo è davvero impossibile. Inoltre, con quale scopo i discepoli avrebbero cercato di ingannare il mondo? Avrebbero dovuto avere una ragione, perché non si inganna senza uno scopo. Perché gli apostoli e i discepoli avrebbero sparso la menzogna della resurrezione? Non ricavavano né gloria né profitto a dichiararsi per Gesù un malfattore crocifisso in croce, e ne dettero la prova rinnegandolo e disertando la sua causa, tanto questa era pericolosa. Infine, questi uomini erano pronti a sacrificare la loro vita per quello che proclamavano. Ora, se qualcuno a stento darebbe la propria vita per una giusta causa, chi la sacrificherebbe per una causa che sa non essere vera? Ci sono uomini disposti a morire per un'illusione in cui credano appassionatamente, ma non per un inganno scoperto. Se più persone si uniscono per affermare una menzogna, vi sono molte probabilità che, presto o tardi, almeno una di queste ritratti. Tutti questi testimoni della resurrezione di Gesù Cristo sono vissuti ancora per tanto tempo, in luoghi diversi e in situazioni differenti, minacciati dalla persecuzione e dalla morte. Mai nessuno tra loro ha ritratto ciò che ha affermato e che dovrebbe essere per alcuni una menzogna. Per i discepoli di Gesù la resurrezione del loro maestro non era un'opinione ma una certezza. Anche la teoria che il corpo di Gesù fosse stato rubato dai discepoli non sta in piedi. C. La teoria della visione. Una teoria ampiamente sostenuta afferma che in realtà i discepoli fossero sinceri poiché avrebbero avuto una visione soprannaturale di Cristo nella sua nuova condizione di gloria. Anche questa teoria cozza contro due principali obiezioni. Innanzitutto i discepoli hanno sempre sostenuto che Gesù risorse. Se questo non fosse stato vero, allora essi erano i sostenitori di un messaggio falso, cosa come abbiamo visto assurda da sostenere, data la loro inflessibile onestà. La seconda obiezione è che tale teoria non spieghi il fatto della tomba vuota. Quando i discepoli cominciarono a predicare la resurrezione fisica di Gesù, si suppone che la prima cosa da farsi da parte dei loro nemici giudei sarebbe stata presentare il corpo morto di Gesù, dimostrando così che i discepoli fossero dei visionari. Ma il silenzio dei giudei è significativo, tanto quanto la predicazione dei cristiani. Vi sono però altre obiezioni valide da avanzare. Secondo il racconto dei Vangeli furono proprio i discepoli a credere di aver avuto una visione e di aver visto uno spirito, fino a quando incontrandoli Gesù non li convinse di possedere un corpo fisico. Leggiamo in Luca 24, 33-43. In quello stesso momento i due discepoli di Emmaus si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso si rese presente in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi!» Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Che i discepoli avessero visto Gesù nella sua nuova condizione di gloria non è poi difficile da sostenere. Maria stessa, vedendo Gesù risorto, pensò che fosse un ortolano. Giovanni 20, 14, 16. Le altre donne lo hanno adorato e stretto i piedi. Matteo 28, 9. Mentre i due discepoli diretti ad Emmaus hanno parlato con lui per delle ore, scambiandolo per un qualsiasi israelita. Essi lo hanno, in seguito, visto sparire solo dopo aver pregato e rotto il pane. La teoria della visione è, quindi, impossibile. D. La teoria dell'illusione ottica, o dell'allucinazione. Queste due teorie sono più o meno simili, perché la prima è qualcosa che si verifica nel mondo esterno, mentre la seconda si verifica nella mente dei discepoli. Anche queste due teorie sono molto deboli. Innanzitutto non bisogna dimenticare che Gesù è apparso, nel seguente ordine. 1. Il giorno della resurrezione a Maria Maddalena, Giovanni 20, 14-28. 2. Alle donne che tornavano dal sepolcro, Matteo 28, 8-10. 3. A Pietro, probabilmente nel pomeriggio, Luca mezzanotte 34, 1 Corinzi 15, 5. 4. Ai discepoli, in Emmaus verso sera, Luca mezzanotte 13. 5. Agli apostoli, mentre Tommaso era assente, Giovanni mezzanotte 36, Giovanni 20, 19-24. 6. Dopo 8 giorni, agli apostoli, presente anche Tommaso, Giovanni 20, 24-49. 7. Ai discepoli, presso il lago di Tiberiade, Giovanni capitolo 21. 8. Su un monte, agli apostoli e a più di 500 fratelli. 1 Corinzi 15, 6. 9. A Giacomo. 1 Corinzi 15, 7. 10. Agli 11. Matteo 28, 1-6. Marco 16 e 14. Luca mezzanotte 33. Atti 1-3. 11. A Paolo, vicino a Damasco. Atti 9, 3. 1 Corinzi 15, 8. 12. A Paolo, a Gerusalemme nel Tempio, Atti 22, 17, 23 e 11. 13. A Stefano, fuori di Gerusalemme, Atti 8-5. 14. A Giovanni in Patmos, Apocalisse 1, 10-19. Leggendo di queste apparizioni, è difficile credere che 500 persone, contemporaneamente, abbiano avuto la stessa apparizione o illusione. Ma ad invalidare ogni teoria è il fatto della tomba vuota. Giacché i cristiani cominciarono a predicare la resurrezione di Cristo, i giudei, essendone in grado, avrebbero certamente mosso cielo e terra per mostrare il cadavere di Gesù. Il fatto che non abbiano potuto farlo costituisce una confutazione decisiva a tale teoria. Due indizi importanti. Terminiamo queste prime riflessioni ricordando due indizi che, a mio avviso, sono rilevanti al fine di dimostrare a chi ancora avesse dei dubbi che Gesù è veramente risorto. 1. È straordinario il fatto che ad avere il dubbio della resurrezione di Gesù furono i suoi nemici e non i discepoli. Leggiamo nell'Evangelo di Matteo 27, 57-66. Poi verso sera giunse un uomo ricco di Arimatea, di nome Giuseppe, il quale era pure discepolo di Gesù. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse consegnato. E Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo mise nel suo sepolcro nuovo che egli si era fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria stavano là, sedute di fronte al sepolcro. E il giorno seguente, che era quello successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora in vita, disse: "Dopo 3 giorni io risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno, che talora non vengano i suoi discepoli di notte a rubare il corpo e poi dicano al popolo: "Egli è risuscitato dai morti", così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Ma Pilato disse loro: "Voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro come vi sembra meglio". Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro. E, oltre a mettere la guardia, sigillarono la pietra. Più di una volta gli evangelici ricordano che quando Gesù parlava della sua resurrezione ai suoi discepoli, questi non capivano. I suoi nemici, al contrario, se ne ricordarono, per cui essi presero tutte le precauzioni per evitare tale evento e misero delle guardie al sepolcro e sigillarono la pietra. Questo atto era il rifiuto da parte degli ebrei di ammettere la resurrezione di Gesù. I suoi discepoli, come invece abbiamo considerato, erano increduli. Essi credettero solo dopo varie dimostrazioni. Leggiamo questo nell'Evangelo di Marco. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose, apparve in altra forma a 2 di loro, che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Marco 16, 9-14. L'incredulità dei discepoli è la prova più convincente che non vi fu alcun complotto da parte loro. È una delle testimonianze più valide riguardo alla resurrezione di Cristo. 2. Il secondo indizio è la testimonianza di Giovanni riguardo ai panni di lino e al sudario di Gesù. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni 20, 1-10. Ora il primo giorno dopo i sabati, al mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro e, chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò anche Simon Pietro che lo seguiva. Entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Alla notizia che Gesù non era più nella tomba, Pietro e Giovanni, quello che il Vangelo definisce l'altro discepolo, corsero al sepolcro per verificare l'accaduto. La loro preoccupazione dimostra che essi non potessero aver rubato il corpo di Gesù. Avendo portato via il cadavere, essi avrebbero preso altresì il sudario e, di certo, non si sarebbero curati di piegarlo accuratamente. Inoltre, la loro apprensione dimostra che essi non avessero capito che il loro maestro dovesse risuscitare. Alla fine della corsa arrivò per primo Giovanni perché più giovane. Pietro però entrò per primo. Certamente, spinto dal dispiacere per aver rinnegato il suo maestro pubblicamente per ben 3 volte. Che cosa videro? Notarono che i panni di lino erano rimasti al loro posto. Infatti, il corpo di Gesù, secondo fonti storiche, era stato avvolto strettamente in strisce di stoffa del peso di oltre 30 kg. Questa quantità era normale, secondo gli usi del tempo, per la sepoltura. Gamaliele, contemporaneo di Gesù, secondo alcuni studiosi, fu sepolto con 40 kg di stoffa. Le bende, che avevano fasciato il corpo di Gesù, erano come il bozzolo di una farfalla, intatto ma vuoto. Poteva sembrare che il corpo di Gesù fosse evaporato, passando così attraverso le bende. Tutto era intatto. Il turbante, cioè il sudario, era messo da parte, staccato quindi dalle altre bende. Questi 2 indizi sono sufficienti per dimostrare che Gesù non si era ripreso dopo la sepoltura, perché egli avrebbe dovuto uscire coperto del solo perizoma, cioè seminudo, e il pudore gli avrebbe impedito di farlo. Ma se Gesù risuscitò in un corpo incorruttibile, gli abiti erano inutili. Inoltre, risulta ancora meno credibile che il corpo di Gesù fosse stato trafugato, perché chi avesse fatto questo avrebbe portato via il corpo con quanto lo ricopriva e non avrebbe ripiegato il sudario da una parte. L'unica spiegazione razionale di fronte a queste testimonianze è che Gesù risorse, esattamente come egli aveva predetto, esattamente come i suoi nemici avevano udito e capito bene, al contrario dei discepoli che, pur avendo anch'essi udito, non capirono niente. Possiamo dire che il cristianesimo si regga in piedi o cada sulla testimonianza della resurrezione di Cristo. Dimostrate falsa la resurrezione e vi sarete sbarazzati per sempre del cristianesimo. Voglio però ammettere che nel tuo cuore vi possa ancora essere qualche dubbio. Per questo ti voglio fare una domanda. Il solo fatto che i cristiani fondassero il loro messaggio su di una storia così ardita, impossibile e dal punto di vista umano assurda non ti causa dei seri interrogativi? I fondatori di religioni, per essere creduti uomini particolari, fecero sì delle affermazioni strabilianti, spettacolari, ma in fondo sempre credibili. Buddha disse di essere stato 40 giorni in meditazione e digiuno, e alla fine di aver avuto una rivelazione. A Maometto, che stava dormendo sul monte Hira, apparve un angelo, in sogno, con uno scritto. Maometto rispose che non poteva. Quando uscì dalla grotta udì una voce che gli disse: «Maometto, tu sei il messaggero di Dio e io sono Gabriele». Da quel momento, egli credette di essere il profeta di Dio. Charles Taze Russell, il fondatore della Società della Torre di Guardia, non conosceva né il greco né l'ebraico, ma organizzando uno studio per la Bibbia fu eletto pastore. Joseph Smith diede avvio al movimento dei mormoni. Ricevette la visita di un essere angelico. 3 anni più tardi, l'angelo gli indicò un luogo dove egli scavò, trovando delle tavole d'oro su cui, in geroglifici egiziani riformati, era scritto un nuovo Evangelo. Ma siccome Smith non capiva tale lingua, l'angelo gli provvide un paio di occhiali divini, attraverso le cui lenti potesse vedere la traduzione in inglese. Questi racconti hanno dello spettacolare, ma nessuno di essi è paragonabile al racconto della resurrezione. Nessun uomo, per quanta fantasia abbia, si sognerebbe mai di inventare una storia tanto incredibile. Affermare che un uomo morto è risorto, ed è tuttora vivente, significa fare un'affermazione che non ha paragoni nella storia delle religioni. Ci troviamo di fronte ad un atto di immaginazione che non ha confronti nel pensiero dell'uomo, al punto tale da dover ammettere che affermare l'impossibile è impossibile, a meno che quello che sembri impossibile sia vero. Se l'impossibile è vero, allora è doveroso, è giusto, predicare l'impossibile possibile. Gesù è risorto. È vivente ed intercede per tutti coloro che hanno posto fede in Lui. La mia preghiera è che queste riflessioni non ti lascino nell'indifferenza o nello stato in cui ti trovavi prima. Di fronte alla resurrezione di Cristo non si può rimanere neutrali. O fai le dovute ricerche per arrivare a convincerti che Gesù non è risorto come Signore e potendo così di conseguenza vivere come ti pare, oppure se egli è risorto, come afferma la Scrittura e come credono milioni di persone, allora Gesù, essendo tale, deve essere creduto, adorato e servito. Non hai scelta. Gesù disse: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Luca 11 e 23. Le ragioni della resurrezione di Gesù Cristo. Abbiamo sostenuto il miracolo della resurrezione di Cristo per coloro che vogliano negare, senza neppure una prova, tale avvenimento. Abbiamo anche detto che la resurrezione di Cristo è uno degli avvenimenti storici meglio documentati. Essa infatti è sostenuta e appoggiata da prove quali, molto difficilmente abbiamo per altri fatti storici, anche a noi più vicini. Prendiamo ora in esame la necessità della resurrezione di Cristo, per valutare adeguatamente non solo il miracolo in sé, ma anche le sue conseguenze. Prima di entrare nel merito ricordiamo 4 aspetti per i quali la resurrezione di Cristo non sia un'invenzione, ma una realtà storica. 1. Dopo la morte di Gesù debitamente constatata, e dopo tutte le precauzioni prese dalle autorità per impedire ogni inganno, il fatto della resurrezione risulta ampiamente provato. 2. Gesù fu ucciso da persone competenti che si accertarono della sua morte. Marco 15 e 43. 45. Marco, nel suo Evangelo, precisa che Pilato, prima di dare ordine di togliere Gesù dalla croce, si accertò che egli fosse morto. Inoltre, secondo il racconto di Giovanni, Giovanni 19 e 34, uno dei soldati romani, per essere certo della morte di Gesù, gli forò il costato, trafiggendogli il cuore. 3. Quando si sparse la notizia della morte di Gesù, nessuno ebbe il dubbio che fossero stati i soldati ad ucciderlo. Matteo 28, 13. Infatti i soldati, posti a guardia del sepolcro, furono costretti dai capi sacerdoti a mentire, dicendo che il suo corpo era stato rubato dai suoi discepoli. Matteo 28, 11-15. I discepoli non potevano aver rubato il corpo di Gesù, poiché il sepolcro era ben custodito dalle guardie del Tempio e la pietra che lo chiudeva era stata sigillata. 4. La disperazione dei discepoli di Cristo prova la realtà della morte del loro Maestro. Giovanni ci ricorda che i discepoli, dopo la morte di Cristo, ritornarono alle loro attività, cioè a pescare, segno, questo, che sta ad indicare come, per loro ormai fosse tutto finito. Luca narra l'episodio di due discepoli in cammino verso Emmaus, i quali dissero: «Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele». La disperazione dei discepoli era tale che, quando essi videro Gesù apparire accanto a loro per la prima volta, pensarono si trattasse di un fantasma. Anche Maria, quando vide il sepolcro vuoto, pensò che qualcuno avesse trafugato il suo corpo. Veniamo ora al nostro argomento. 1. La resurrezione di Gesù era necessaria affinché le profezie si adempissero. Leggiamo il primo messaggio evangelico proclamato da Pietro. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi, per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste, ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso». Per questo si era allegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza. Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia alla tua presenza». Fratelli, si può ben liberamente dire intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno d'oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che, dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere sul suo trono. E, prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e di questo noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: «Il Signore ha detto a mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore Cristo. Dopo aver difeso i discepoli che parlavano in altre lingue, Pietro dimostra che la resurrezione di Cristo non fu un avvenimento inaspettato, ma che fu preannunziato già 1000 anni prima. Questo modo di procedere nel predicare era molto importante, perché nulla doveva succedere nella vita di Cristo che non fosse già stato annunziato, altrimenti Gesù poteva realmente essere scambiato per un qualsiasi impostore. Proprio per questo motivo i musulmani cercano le credenziali del loro profeta nelle scritture. Quando un musulmano mi voleva dare la prova che Maometto fosse il profeta citato in Deuteronomio 18 e 18, gli feci notare che si trattava di uno come te, in mezzo ai loro fratelli, cioè un ebreo. Maometto, a scanso d'equivoci, è arabo e non israelita. Come profeta, Gesù profetizzò la sua resurrezione. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni 2:13-22. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme. E trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e cambiamonete seduti, fatta quindi una frusta di cordicelle. Li scacciò tutti fuori del Tempio insieme con i buoi e le pecore e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole e ai venditori di colombi disse: «Portate via da qui queste cose. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: «Lo zelo della tua casa mi ha divorato». Allora i giudei risposero e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose e disse loro: «Distruggete questo tempio, e in 3 giorni io lo ricostruirò». Allora i giudei dissero: «Ci son voluti 46 anni per edificare questo tempio, e tu lo ricostruiresti in 3 giorni?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Gesù stesso all'inizio del suo ministero ha profetizzato che sarebbe risorto corporalmente. I suoi nemici lo capirono molto bene e temevano il compimento di questa profezia. In effetti, secondo Matteo 27:57-66, i suoi avversari presero delle precauzioni, proprio perché l'ultimo inganno sarebbe stato peggiore del primo. L'apprensione dei suoi nemici era ben fondata. Essi però non poterono impedire che la profezia si avverasse. In seguito Gesù, appena risorto, apparve ai discepoli e subito ricordò loro che quello che stavano vedendo non era altro che l'adempiersi delle profezie. Anche Paolo, nel suo primo discorso da missionario riportato da Luca nel libro degli Atti, evidenzia che la resurrezione di Cristo fosse già stata preannunziata dalle scritture. Atti 13:13-41. 2. La resurrezione di Gesù era necessaria, a conferma delle affermazioni riguardo alla sua identità di figlio di Dio. Leggiamo i Romani 1:1-4. Paolo, servo di Gesù Cristo chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Altri uomini e profeti erano stati preannunziati, come Gesù. Altri avevano fatti miracoli, e altri ancora erano seguiti dalle folle come Gesù, ma nessuno di loro risuscitò. E, molto importante, considerare l'appellativo Signore Gesù, al quale noi ormai abbiamo fatto l'orecchio. Il figlio di Maria aveva il nome di Gesù solo dopo la resurrezione e gli fu chiamato anche Signore. Infatti, questi due termini non ricorrono menzionati assieme nei Vangeli. La prima volta che il figlio di Maria, concepito per lo Spirito Santo, viene chiamato Signore Gesù è al capitolo 24 di Luca, subito dopo la sua resurrezione, Luca 24:3, quando cioè non trovarono il suo corpo. Da quel momento, Gesù fu chiamato Signore. La resurrezione dimostra che Gesù è figlio di Dio, più chiaramente che se Dio stesso lo gridasse ogni giorno dai cieli. La fede nella divinità di Gesù non è basata, quindi, su speculazioni teologiche o filosofiche, ma su un fatto storicamente dimostrato. Ogni volta che affermiamo Signore Gesù, ricordiamo l'origine di tale espressione. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni 10:17-18. Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore, e le mie conoscono me come il Padre conosce me. E io conosco il Padre, e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore, che non sono di questo ovile. Anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Le affermazioni di Gesù, se non vengono collocate nell'ambito della sua divinità, hanno veramente dell'assurdo. Nessuno, e possiamo dire nessuno, ha l'autorità di riprendersi la vita dopo la morte. Inoltre, Gesù non ha detto che sarebbe stato ucciso, ma, al contrario, egli ha sostenuto che avrebbe d'Antico Testamento o la sua vita. Quindi, se nessuno può riprendersi la vita dopo morto, tantomeno, nessuno può offrire la propria vita spontaneamente e poi riprendersela. Solo Dio ha questa autorità. E la resurrezione è la prova lampante che Gesù è Dio. Pietro stesso disse, nel suo primo discorso, che non era possibile che la morte trattenesse nei suoi legami Cristo. Gesù Cristo è la vita, e la vita trionfa sempre. Avete mai osservato l'asfalto? Se nessuno se ne cura, dopo alcuni anni sbucherà l'erba, perforando ciò che sembrava avere potere sulla vita per sempre. Gesù Cristo non è un filosofo, né un riformatore. Egli non è morto come martire, né come un uomo di Dio. Egli morì come Dio fatto uomo. La sua resurrezione attesta questo. Proprio perché Gesù Cristo è stato dichiarato figlio di Dio mediante la resurrezione, un giorno ogni uomo dovrà rendere conto a Lui. Leggiamo ciò che Paolo disse all'Areopago di Atene. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura d'arte di invenzione umana. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Paolo ha usato la parola a tutti, sapendo che la resurrezione di Gesù è una testimonianza eterna. 3. La resurrezione di Gesù era necessaria per mettere perfettamente in regola i peccatori davanti a Dio. Leggiamo in Romani 4, 20-25. Neppure Abramo dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede. E diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Dopo aver dimostrato che Abramo fu giustificato per fede, Paolo afferma che questa giustificazione viene data anche a chi crede alla resurrezione di Cristo. Infatti continua col dire che Gesù è morto per i nostri peccati, ma è risorto per poterci giustificare. La sola morte di Gesù, quindi, non costituisce tutto il messaggio del Vangelo, come invece molti oggi pensano. Senza la resurrezione di Gesù, non avremmo avuto la prova che il suo sacrificio compiuto alla croce fosse valido, mentre risorgendo egli ha reso giusti coloro che credono in lui. In pratica, risorgendo Gesù ha dichiarato: voi avete creduto che io sia il Messia, il Salvatore, e avete fatto bene. Io ve l'ho dimostrato risorgendo. Secondo ciò che è scritto in Romani 8, 31-39, La morte e la resurrezione di Cristo sono la garanzia che nulla separerà il cristiano dall'amore di Dio. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi. Mediante la morte di Gesù Cristo è stato tolto il peccato, mediante la sua resurrezione è stata instaurata la giustizia, il nostro riscatto è stato pagato, la nostra espiazione è portata a termine. Tutto è compiuto. 4. La resurrezione di Gesù era necessaria affinché il cristianesimo fosse riconosciuto unico. È stato detto più volte che tutti i fondatori di religioni sono morti. Ancora oggi possiamo vedere le loro tombe. Solo i cristiani credono in un fondatore che è morto ma anche risorto. Questa unicità dà fastidio a molte persone, sia agli atei che a coloro che professano altre religioni. Abbiamo considerato come gli uomini abbiano tentato in tanti modi di negare questo fatto. Ma la resurrezione rimane e rimarrà il pilastro della fede cristiana. Non dobbiamo mai dimenticare che il cristianesimo è l'unica fede che abbia le sue radici in un'altra religione, l'ebraica. Come disse Pascal, la nostra religione è così divina che un'altra religione divina ne è il fondamento. Pertanto, il cristianesimo è la continuità della rivelazione di Dio. Altrimenti sarebbe stata una nuova religione iniziata 2000 anni fa, che, come tutte le altre venute prima o dopo, sono molto discutibili, per non dire false. In effetti, l'Apostolo Pietro considera la resurrezione di Cristo come una ragione per credere nell'unico Dio. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. La resurrezione di Cristo deve portare l'uomo che sia alla ricerca della verità al Dio di Abramo o di Mosè, al Padre di Cristo. Se Gesù non fosse risorto, lo scherno dei giudei sarebbe stato giustificato. Scenda giù dalla croce e noi crederemo in lui. Gesù non è sceso dalla croce perché doveva morire e restare nel sepolcro 3 giorni, ma risorse, facendo tacere una volta per sempre i nemici suoi e anche delle stesse scritture. Gesù infatti aveva detto: se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. 5. La resurrezione di Gesù era necessaria per dare al credente la garanzia della resurrezione del proprio corpo. Leggiamo in 1 Corinzi 15, 35-57. Ma dirà qualcuno: come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto! Quello che tu semini non è vivificato, se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. E seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza. E seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Fin dal tempo degli Apostoli gli uomini hanno messo in dubbio la resurrezione. Anche oggi si dice che la tomba è la fine di tutto. Eppure la creazione stessa ci parla della resurrezione e Paolo porta, ad esempio, il seme che morendo produce la vita. Purtroppo quello che è tanto comune a volte non ci dice più niente. Giustamente Pascal ha fatto notare: quali ragioni hanno gli atei per sostenere che non è possibile risuscitare? Quale di queste è più difficile, nascere o risuscitare? Che quel che non è mai esistito venga all'esistenza o che quel che è esistito continui a esistere? E forse più difficile venire all'esistenza o ritornarci? L'abitudine ci fa apparire facile la prima cosa. La mancanza di abitudine è impossibile. La seconda, modo volgare di giudicare. Credere alla resurrezione determina per il cristiano un nuovo atteggiamento nei riguardi della morte. Essa si trasforma in una speranza. I cristiani, di fronte al lutto, soffrono come tutti, ma non sono senza speranza. Sanno che un giorno rivedranno coloro che hanno amato in Dio. Riporto un pensiero al riguardo di Clive Staples Lewis. I teologi si sono più volte posti il problema se in cielo le persone potranno riconoscersi e se là continueranno ad avere valore i particolari rapporti instaurati sulla terra. La risposta che mi sembra più ragionevole è la seguente: dipende da ciò che l'affetto era diventato o stava diventando sulla terra. Poiché incontrare qualcuno nel regno eterno verso il quale abbiamo provato in vita un affetto esclusivamente naturale non sarebbe nemmeno interessante. Sarebbe come incontrare da adulti un compagno di scuola con il quale eravamo a quel tempo grandi amici solo perché si giocava a biglie. Ora ci sembrerebbe un estraneo. Continua poi considerando come Agostino disse che noi siamo stati creati per Dio e che avranno valore in cielo solo quei rapporti, quei sentimenti che saranno stati simili a quelli di Dio, risvegliati da Dio, prodotti da Dio. Infine, conclude Lewis dicendo, in cielo non ci sarà l'agonia, né il dovere di staccarci dalle persone che abbiamo amato sulla terra. Prima di tutto, perché ci saremmo già staccati da loro volgendoci dai ritratti all'originale, dai rivoletti alla fonte, dalle creature rese amabili a colui che è l'amore stesso. In secondo luogo, perché li ritroveremo tutti in Lui. Amando Lui più di loro, li ameremo più di quanto non facciamo ora, i quattro amori. Credere alla resurrezione determina nel cristiano un nuovo atteggiamento di fronte alla vita. Leggiamo in Romani 6, 1 a 4. Chi diremo dunque? Rimarremo nel peccato, affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Paolo considera che poiché Cristo è risorto, noi dobbiamo camminare a nostra volta in novità di vita. Si parla quindi di una vita nuova, diversa. Perché i cristiani non vivono come gli altri? Perché vogliono essere diversi? Se è così, possono anche stancarsi di andare controcorrente. Perché il cristiano non pecca? Forse perché non gli piace peccare. Se così fosse, un giorno potrebbe anche piacergli. La ragione fondamentale per cui un cristiano viva una vita secondo la volontà di Dio scaturisce dalla sua presa di coscienza che ci sarà la resurrezione. Egli è cosciente che un giorno saremo giudicati e coronati proporzionatamente all'amore che avremo avuto per Dio. Al contrario, come concluse anche l'Apostolo Paolo, se non vi fosse resurrezione, allora è meglio mangiare, bere e divertirsi, perché tanto alla fine moriremo. È più coerente un ateo che pecchi, perché intanto egli non crede nel giudizio, anziché un cristiano che viva male pur credendo alla resurrezione. Il cristiano è una persona che attende con fiducia un corpo nuovo. Leggiamo questo in Romani 8, 18-25. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito noi stessi, dico soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Paolo ci dice che la creazione aspetta di essere liberata dalla servitù della corruzione. Sì, ogni cosa è sottoposta al lento logorio. Alcuni scienziati sostengono che il nostro sistema solare sia venuto all'esistenza mediante un'esplosione, che noi esseri umani saremmo il frutto di un'evoluzione. Ma per quanto ne dicano questi scienziati, tutto il creato è sottoposto alla legge dell'entropia. La legge dell'entropia afferma che, senza consumo di energia esterna, il calore non può passare automaticamente da un corpo con temperatura più bassa a un altro con temperatura più elevata. In altre parole, ciò significa che tutte le cose invecchiano e decadono. Il calore delle stelle si esaurisce, gli esseri viventi invecchiano, le cose nuove cadono in rovina, l'energia si degrada, ossia diminuisce l'energia utilizzabile. Proprio perché tutto invecchia e noi esseri umani invecchiamo, i figli di Dio aspettano intensamente la resurrezione. Forse uno degli ostacoli ad una vita abbondante è dato dal fatto che i figli di Dio non riescano a realizzare il contrasto della carne e del mondo con il frutto dello Spirito. Forse bisognerebbe essere seriamente ammalati per desiderare ardentemente la resurrezione. Il corpo glorioso dei cristiani sarà spirituale, docile, libero, di esaltazione, di beatitudine, di splendore, in conformità a Cristo. Chi non desidera essere rivestito di un corpo simile? Se consideriamo come un grande dono il mondo in cui viviamo, il corpo che abbiamo ricevuto, Cosa diremo allora quando ci sarà un mondo nuovo e avremo un corpo glorioso? Non avremo parole adatte per esprimere la nostra meraviglia. 6. La resurrezione di Gesù era necessaria perché potessimo ricevere lo Spirito Santo e diventare figli di Dio. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni 7, 37-39 e anche in Efesini 4, 7-12. Or, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, per la qual cosa la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Or questo, e salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. L'Eterno Dio, nell'Antico Testamento, aveva fatto una promessa che sarebbe stata adempiuta dopo la resurrezione di Gesù, il dono dello Spirito Santo che un figlio di Dio riceve quando crede in Lui. Questo ha permesso il formarsi della Chiesa e dato dei doni ai credenti. Forse questo non viene messo sufficientemente in risalto, ma i cristiani hanno avuto la possibilità di ricevere lo Spirito Santo, grazie al fatto che Gesù è risorto. Se i figli di Dio hanno dei doni, è perché Gesù è risorto. La resurrezione di Cristo non è stato soltanto un evento straordinario. Essa ha prodotto nel campo spirituale una rivoluzione unica nel suo genere. Gesù è risorto affinché gli uomini potessero ricevere lo Spirito Santo per farli diventare figli di Dio e quindi formare la Chiesa, la sposa di Cristo. Non vi sarebbe stata la Chiesa né sposa senza la resurrezione. La promessa di Gesù è che dal giorno della Pentecoste sarebbe cessato il ministero del sacerdote umano quale mediatore tra Dio e gli uomini, perché come è scritto in Ebrei 8 e 11 nessuno istruirà più il suo fratello. Tutti mi conosceranno. Che bella promessa! Ogni figlio di Dio ha un rapporto diretto con Dio e essendo egli stesso sacerdote conosce Gesù Cristo, fa parte della sposa di Cristo. Vi è forse un regalo più grande? 7. La resurrezione di Gesù era necessaria perché Gesù potesse intercedere per i credenti. Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse se stesso, Ebrei 7, 23-25. Il sacerdozio è stato istituito da Dio, dal momento che non tutti gli uomini erano degni di presentarsi alla presenza di Dio, egli costituì una casta speciale. Con la resurrezione di Gesù, questa casta non aveva più ragione d'essere perché raffigurava le cose celesti. Gesù è, così, diventato l'unico e il più grande sacerdote tra Dio e gli uomini. Essendo risorto, Gesù intercede a favore di coloro che ha riscattato, perché chi ha creduto in Lui è stato reso giusto per sempre. L'intercessione di Gesù per i figli di Dio non è per la salvezza dell'anima, ma è relativa alla loro vita spirituale. Le interrogazioni dell'Apostolo Paolo che troviamo nella lettera ai Romani sono più che mai significative. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi. Sì, il cristiano può dire con l'Apostolo Giovanni, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Gesù Cristo non solo è il Salvatore dalla perdizione, ma egli salva i suoi da una vita appesantita dai sensi di colpa. 8. La resurrezione di Gesù era indispensabile per la nostra gioia. Ebrei 9:24-26. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte. Come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue, non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una sola volta alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Non perdiamo mai di vista questo aspetto fondamentale. Chi crede in Cristo ha un Salvatore vivente che si è presentato davanti a Dio per lui. Come disse Gesù, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Luca 12:8-9. Una parola di giustificazione da parte di Gesù vale molto di più di mille parole umane in difesa. I figli di Dio non hanno ragione di piangere come coloro che hanno altre religioni. Il fondatore di queste è morto, ma i cristiani sono chiamati a rallegrarsi, a gioire nel loro Salvatore, a lodarlo. Chi ha accettato l'Evangelo ha motivo di rallegrarsi continuamente, perché in esso è la promessa della salvezza, del perdono, è stata annunziata la felicità. Chi crede ha ricevuto il dono dello Spirito Santo, è diventato partecipe della natura di Dio, cammina nella luce. Perché allora darsi alla malinconia? Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gioia e alla gloria che sarà manifestata. Parliamo ancora della felicità. Ecco cosa ho letto nel periodico La Voce del Vangelo. Trovare la vera felicità oggi è più difficile che vincere alla lotteria. In un'inchiesta, solo il 7% degli italiani intervistati diceva che era felice e l'altro 93% forse erano come te. Definire la felicità non è facile, non conoscendola inoltre è anche ben difficile trovarla. Per te cosa è la felicità? Una delle risposte più comuni è che la vera felicità proviene dalla famiglia. Un matrimonio ben riuscito, in cui regnano l'amore e l'intesa, figli sani, intelligenti e volenterosi. Per altri la felicità è impossibile senza avere una buona quantità di soldi, un lavoro che rende bene, la possibilità di spendere senza ristrettezze. Perciò, possedere una macchina nuova ed elegante, fare le vacanze nei luoghi di moda, avere una casa comoda e ben arredata, vestirsi con buon gusto ed eleganza, vuol dire essere felici. Alcuni direbbero che basta la salute, particolarmente quelli che non l'abbiano. Ma quanti hanno un matrimonio che procede senza problemi? Pochi. Quanti hanno dei figli che non danno loro qualche preoccupazione? Pochissimi. Quanti direbbero che le loro entrate bastano? Che possiedono tutto ciò che desiderano? Forse nessuno. Allora sembrerebbe che la sola vera felicità sia avere ciò che non si possiede. E, siccome a tutti manca qualcosa, si arriva diritti alla conclusione che nessuno possa dirsi felice. Ma vi sono alcuni che, andando controcorrente, definiscono la vera felicità in un modo diverso. Sono pochi. E, spesso, sono considerati un po' semplici di mente. Sono coloro che credono che si possa essere veramente felici pure in mezzo a problemi, alle ristrettezze e, perfino, con una salute precaria. Certamente sarebbe un bell'acquisto se fosse vero. Godere di un'allegrezza che ravvivi ogni giorno la tua vita, nonostante quanto quel giorno possa essere grigio. Un'allegrezza che permetta di affrontare di buon umore anche i problemi difficili, le sofferenze, meritate o immeritate. Questa gioia, questa felicità e questa allegrezza la puoi trovare leggendo e credendo la parola di Dio. 9. La resurrezione di Gesù era necessaria affinché egli ricevesse il diritto d'essere giudice su tutta l'umanità. Leggiamo una parte del discorso che Paolo ha fatto ad Atene descritto in Atti 17:24-31. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il fiato e ogni cosa. Or egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovare, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro o all'argento, o alla pietra, o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando Cristo assunse una natura umana nel seno vergine di Maria, egli non venne sulla terra per giudicare, ma per salvare l'umanità. Ma dopo essere risorto e salito in cielo, egli tornerà una seconda volta, come leggiamo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Sì, Dio giudicherà il mondo per mezzo di Cristo. Gesù stesso è stato esplicito al riguardo, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Poiché, come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. E gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Giovanni 5:22-27:29. Se tu ti chiedi come sia possibile che il giorno del giudizio stia per venire, c'è una sola risposta: perché Cristo è risorto dai morti. Il fatto certo della resurrezione di Cristo nel passato assicura la certezza del giudizio futuro. Egli giudicherà le opere degli uomini e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui. Saranno considerate le opere secondo le possibilità date a ciascuno. Saranno valutati i nostri atti, ma anche le nostre omissioni, dei nostri peccati. Egli non giudicherà quelli che noi avremo giudicato, egli coprirà quelli che noi avremo confessato, ma svelerà ciò che avremo nascosto. Ciascuno riceverà la giusta retribuzione. Dopo queste riflessioni, possiamo affermare che le ragioni della resurrezione di Gesù sono molte, e solo in cielo comprenderemo appieno il valore di questo miracolo. Gesù è risorto! Al credente basta questo fatto. Concludo con la seguente considerazione. Noi abbiamo esaminato la resurrezione di Cristo dal punto di vista di necessità, cioè più dal punto di vista umano, egocentrico, antropocentrico piuttosto che cristocentrico. Dal punto di vista cristocentrico, le cose che abbiamo esaminato sono forse più il risultato della resurrezione che la loro motivazione. Gesù è risorto più che per una motivazione, a causa della sua essenza. E, come dire, ho le gambe perché possa camminare. No, io ho le gambe perché fanno parte del mio corpo, della forma umana. Che poi con le gambe io cammini, salti, è la conseguenza di essere un uomo. Così è di Gesù.

Questa mi rispose seccata: «Non voglio più sentire parlare di Dio e né di Gesù». «Perché?» gli chiesi. «Perché voglio andare in un posto dove non ci sono dei cristiani, dove non c'è e Dio». «Questo non è un problema», risposi. «Ci andrai». «Finalmente», disse tutto trionfante. «Però», aggiunsi, «sappi che questo posto si chiama inferno. Se sei scettico, non ti preoccupare. Oggi è il tempo per rimediare». Molti fra i difensori del cristianesimo erano stati degli scettici come C.S. Lewis o Josh McDowell, per citarne due. Quest'ultimo era un ateo accanito. Voleva scrivere un libro per dimostrare al mondo che Gesù, Cristo, non era il Salvatore morto per i nostri peccati e risuscitato, ma una semplice leggenda, sviluppatesi nel corso dei secoli. A tal fine egli cominciò le sue ricerche storiche che misero in evidenza dei fatti molto sorprendenti. Contro la sua volontà egli dovette ammettere che Cristo era veramente il Salvatore, morto volontariamente per tutti gli uomini, e, infine, anche risuscitato. Il peccato di una persona non è quindi dubitare del messaggio di Dio, ma rimanere nel dubbio. È, in altre parole, non darsi da fare per verificare il messaggio di Dio. Una regina di nome Sheba non credeva a quanto si dicesse di Salomone, ma fece un viaggio di centinaia di chilometri per vedere se ciò era vero. Alla fine credette. Secoli dopo Gesù, parlando di lei, non l'ha rimproverata per il suo dubbio, ma al contrario l'ha lodata perché fece tutto il possibile per accertarsi di quello che sentiva dire. La parola di Dio ci invita a non rimanere nell'indifferenza. O guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi, se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Ebrei 12, 5. O, se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi, se trascuriamo una così grande salvezza? Ebrei 2, 2 a 3. L'interrogativo è solenne. Una risposta affermativa è urgente. Nutri quella poca fede che hai e il tuo dubbio morirà di fame. Aprile 1984. Gennaio 2003. Ellero.